con il critico cinematografico Fabio Ferzetti per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Ciao Fabio, ben trovato. Buongiorno Federico, ciao, buongiorno a tutti. Abbiamo quest'anno, insomma, i grandi fenomeni dell'anno, cioè continua questa cosa che ahimè ai nostri colleghi dei giornali piace tanto e che invece secondo me è sciagurata e non fa bene, che si chiama polarizzazione, cioè ci sono sempre meno film che guadagnano una fetta sempre maggiore di incassi, mentre continua a crescere il numero di film che si attestano su incassi medio, medio-bassi, bassini, bassissimi, invisibili. E questo non è un segno di salute, secondo me è un segno di grande crisi, quindi ecco, spero che il cinema non continui ad andare in quella direzione, anche se tutto mi dice che lo farà, perché naturalmente quando c'è un film successo spariscono le sale, spariscono gli spazi sulla stampa, sparisce forse anche l'attenzione della rete, quella più difficile da monitorare, comunque si impenna l'attenzione per, vabbè, non giriamoci intorno, i film sono Barbie, Oppenheimer e c'è ancora domani. Questi tre film, se altri 20 bei film avessero goduto di un decimo dell'attenzione, dei commenti, delle sale, quindi dell'appoggio, del sostegno concreto, oltre che ideale, di cui hanno avuto questi film, forse le cose sarebbero andate diverse, perché non dimentichiamoci, adesso io citerò una serie di film e tra gli ascoltatori molti direbbero, ah, mi sarebbe piaciuto vederlo, ma non lo davano, non l'ho trovato. E noi poi parliamo dalle grandi città, non voglio immaginare, anche se so benissimo cosa succede in provincia, insomma. Quindi in questo senso il mercato cinematografico continua, italiano, a dare segni di provincialismo, miopia, sono discorsi vecchi. Se poi parliamo di dove va il cinema nel senso creativo, estetico, narrativo, beh, insomma, è stata una buonissima annata. Io appunto ho faticato moltissimo a mettere insieme un numero limitato di film, anzi adesso sempre ci bracherò e dopo i 5 ne cito un'altra ventina. Se devo dire le preferenze assolute, vabbè, il film dell'anno è Anatomia di una caduta, seguito, contornato, insomma, sta insieme a Pacifiction di Albert Serra, del regista catalano, ma ormai totalmente francesizzato, e Al cielo brucia di Christian Petzold, che è stata la grande sorpresa di fine anno, regista, buon autore, che ha sempre fatto film molto interessanti, ma che non andavano mai molto oltre appunto la categoria dell'interessante. Sempre robuste impalcature intellettuali, molto pensiero, un po' meno cuore, meno sensibilità, cioè sì, ma sempre appunto rivestita di strutture intellettuali pesanti. Invece il cielo brucia è tutto leggerezza, è un'estate, una casa, quattro personaggi, poi cinque, insomma è stata una delle grandi sorprese. Questi tre film hanno in comune una cosa di essere tre film dal passo, diciamo, filosofico, che rimettono molto in discussione proprio il farsi del racconto, il costruirsi delle immagini, più radicale Pacifiction, ma a suo modo Anatomia di una caduta nei modi del thriller giudiziario e anche Il cielo brucia, insomma. Cosa succede veramente? Cosa stiamo vedendo? Cosa sta accadendo? Ecco, funzionano su questa domanda qui. Quindi sono film molto, molto adulti, molto, molto avanzati, molto consapevoli di sé e che giocano una partita molto sofisticata con lo spettatore, quindi non possono che piacermi molto. Immediatamente dopo o accanto, bah, non so, forse c'è Close di Lucas Donte, un film che nessuno cita mai, magnifico, uscito allo scorso Capodanno, che racconta come mai nessuno aveva mai fatto quella stranissima età che non è più pubertà, non è ancora adolescenza, quello stranissimo tipo di rapporti che tutti abbiamo avuto, che sono tra l'amicizia e l'amore, e vabbè, con dei non attori, due ragazzini portentosi. Insomma, io ho trovato un film miracoloso e mi sorprende che sia ricordato poco. E l'altro, se dobbiamo fermarci a 5, è Asbestas, che è una delle altre grandi sorprese dell'anno. Lo spagnolo sono Goyen, attori francesi, vabbè, non ne parlo, l'hanno visto, questo l'hanno visto in molti. Questi sì, se vogliamo, i magnifici 5, ma ce ne sono moltissimi altri accanto, subito dopo, vicini. Ma c'è Il rapito di Bellocchio, c'è Foglie al vento di Kaurismäki, ci sono almeno due grandissimi film asiatici, che sono Il male non esiste di Yusuke Hamaguchi, che è da poco in sala, e l'ormai vecchio Decision to Live di Park Chan-wook. Se i nostri distributori ogni tanto si facessero venire delle idee brillanti per dare un bel titolo italiano di richiamo, forse Decision to Live potrebbe raddoppiare i suoi spettatori, ma è una fatica che nessuno fa più. E sono ancora una volta due film molto interrogativi, molto attraversati da una specie di dubbio radicale che mette in discussione le immagini costantemente, anche questi due, guarda caso. E dall'America voglio almeno citare il dimenticatissimo Armageddon Time, che è un film magnifico con un titolo sbagliato, passato un po' inosservato anche per quello, ma insomma i film dell'anno americani sono Asteroid City di Wes Anderson e Killers of the Flower Moon di Scorsese, che sono l'ennesima prova del talento pazzesco, dell'originalità di questi due registi, che hanno completamente cambiato il modo di fare il cinema, cioè quel cinema lì lo fanno solo loro e continuano a farlo e ad ampliarne gli orizzonti e la profondità. Ma la cosa curiosa è che sono tutti e due in qualche modo metafilm, no? Wes Anderson fin dall'inizio, perché è tutta una commedia che va in scena in televisione, quindi c'è il dietro le quinte insieme la rappresentazione di quello che accade in questa immaginaria cittadina di scienziati nel deserto, mentre Scorsese ha questo fantastico testa coda finale per cui tutto quello che ci ha raccontato diventa veramente racconto, è lui stesso a raccontarlo, diventa una riflessione su come appunto la realtà, i fatti veri, la storia realmente accaduta, vissuta, sofferta sulla pelle da migliaia di persone, poi si trasformi in racconto, in mito, in favola, quindi in memoria collettiva e poi alla fine anche inevitabilmente, come in questo caso, l'oblio, la memoria, la dimenticanza è un attimo. Posso almeno citare altri 4-5 film eccezionali usciti quest'anno: Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, Tar di Todd Field, Una relazione passeggera di Emmanuel Moreau, Laila e i suoi fratelli di Saïd Roussaï, La cospirazione del Cairo, Rodeo, un'opera prima francese, Il marocchino e il castano blu, insomma, quindi ecco. L'annata è stata ottima, però noi continuiamo a concentrarci, tutto il dibattito, almeno sui grandi mezzi di informazione, si disse sempre intorno a quei 4-5 titoli, questo è un po' avvilente. C'è una specie di effetto Sanremo, capito, che ormai investe il cinema, e non è detto che debba essere così. Oh, poi tra i film italiani, oltre al celebrato, giustamente, Io Capitano, ci sono almeno due bei film molto dimenticati, Palazzina Laff, L'esordio di Michele Biondino, che è un film molto interessante, pieno di vita, anche di imperfezioni, se vogliamo ancora, ma viva Dio, pieno di coraggio e di passione. E poi un film, vabbè, che invece è fatto per provocare, dividere, mettere a disagio, che si chiama Patagonia, scoperto al Festival di Locarno, è uno dei giorni più interessanti, una specie di versione homo e punk della Strada di Fellini ambientata oggi. Ecco, che nel paese di Fellini nessuno si sia accorto che c'è una specie di strano, quasi nessuno, insomma, che ha parlato di questo stranissimo remake molto forte, molto inquietante della Strada, la dice lunga, perché era molto molto molto interessante. Ci sentiremo nel corso dell'anno, auguri e a presto. Quando vuoi, sono stato Logorroico, auguri a tutti, buona fine anno e buon inizio.